Con Federico Pommier per un bilancio dell'annata cinematografica 2018 e per sapere i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Federico, ben trovato. Ciao, ben trovato a tutti. Allora, che ne dici di quest'annata? Dunque, insomma, è stata un'annata abbastanza interessante. Poi bisogna sempre capire da quale punto di vista fare il bilancio, nel senso che dal punto di vista, diciamo, del box office, degli scatti, non mi pare sia stata un'annata particolarmente fortunata, anche se credo che più o meno si sia messo il livello dello scorso anno. Non ci sono stati grandissimi, insomma, grandissimi successi, grandissimi, si conferma ovviamente sempre la predominanza dei titoli americani, delle major, insomma, box office, delle grandi produzioni per le famiglie, Disney e quant'altro. E invece, insomma, sui titoli italiani, ho visto che tra i primi 20 scatti dell'anno ci sono solo uno o due titoli italiani, ma quindi comunque la quota di mercato è sempre abbastanza ridotta. Per quanto riguarda invece, diciamo, più il discorso della qualità artistica cinematografica, che uno fa un bilancio dei grandi festival internazionali dell'anno, c'è stata una particolare vivacità, diciamo, anche da un punto di vista, e una diversificazione anche da un punto di vista geografico a livello internazionale, no? C'è il cinema asiatico, no? Che ha vinto a Cannes, per esempio, il cinema sudamericano, insomma, il cinema cileno, con Roma, di Cuarón, eccetera, che dimostrano, insomma, una vitalità e una capacità di produrre, insomma, grandi opere, anche di più alte qualità artistiche, che quindi in qualche modo diversificano lo spettro cinematografico mondiale, lo spettro della qualità cinematografica mondiale. Non è solo Europa e gli Stati Uniti, ecco, e quindi probabilmente appunto è attraverso i festival grandi e piccoli che si riesce a percepire, diciamo, questa vivacità culturale del cinema internazionale che piuttosto che invece che in sala, dove invece prevalgono logiche più commerciali. Tra i tuoi preferiti? Dunque, allora, appunto, facendo una cinquina, diciamo così, dei film preferiti, metterei, diciamo, partiamo da questo, dai, dal quinto, metterei Tre manifesti wrestling di Martin McDonagh, che è, insomma, una storia di grandissima capacità narrativa, una sceneggiatura che, insomma, sposta continuamente il punto di vista e anche il giudizio di valore su questa storia di pregiudizio, di razzismo e di rapporto con l'altro. Penso uno dei film più interessanti e avvolgenti dell'anno. Poi metterei La forma dell'acqua, The Shape of Water, Guillermo del Toro, che è questa favola proprio attraverso diversi generi, ambientato nell'epoca della Guerra Fredda, dove c'è questa grandissima attrice inglese, che è Sally Hawkins, che devo dire, appunto, rispetto anche al precedente per Manifesti Neri, anche lì una interpretazione che si deve e quindi, insomma, due opere americane che, insomma, fanno risaltare le interpretazioni femminili. E poi, insomma, La forma dell'acqua, insomma, è un viaggio un po' attraverso generi, citazioni, atmosfere, insomma, che attraversano sia la storia, la nostra storia, che la storia del cinema, e anche quella, insomma, è una favola sulla diversità, sostanzialmente, sull'accettazione del diverso. E poi metterei un film italiano e sicuramente dopo di Matteo Garrone, insomma, ti conferma come uno dei nostri attori più importanti, più forti, più potenti, c'ha una forza visiva e diciamo quasi pittorica del cinema di Garrone, che è davvero quasi ineguagliabile, e anche una storia che è appunto ispirata a un celebre fatto di cronaca del Canale della Magliana, però insomma poi tocca corde umane esistenziali, ma anche sociali, insomma profonde, insomma, anche l'ambientazione, questa ambientazione indefinita della periferia italiana del centro-sud, insomma, fa emergere un ritratto potente, veramente merita. Poi metterei come al secondo posto un film, diciamo, poco visto, poco conosciuto, che è uscito in sala, ma insomma in circuiti, diciamo, alternativi, è stato presentato a Venezia, ma è un film veramente forte, importante e molto significativo al nostro tempo. Si tratta di Steel Recording, che è questo documentario, sì, direi, di questi due registi, giovani siriani, girata Ayoub e Said al-Batal, che in realtà poi è composto da tutto un gruppo di filmmaker che hanno filmato dall'interno, dal campo, la guerra civile siriana. Insomma, il film è stato girato tre anni nel corso del conflitto, ed è veramente impressionante perché ti porta proprio dentro questo terribile conflitto civile che ha sconvolto la Siria, ma insomma tutto il Medio Oriente, i cui effetti poi sono arrivati fino a noi anche con la questione dei profughi, che è davvero, insomma, un pugno nello stomaco, ma merita assolutamente di essere visto per capire quello che è stato e quello che è ancora purtroppo la guerra siriana. E infine l'ultimo, cioè il primo, metterei Cold War di Pavel Mazikowski, che insomma è una meravigliosa storia di amore che però attraversa anche questo, ambientato nella guerra fredda, un po' come La forma dell'acqua, però da, vista dalla parte, diciamo, dell'est della Polonia, in realtà parte dalla Polonia, poi attraversa Mezz'Europa, Berlino, Parigi, la Jugoslavia, ritorna in Polonia, ed è appunto una storia d'amore che metaforicamente in qualche modo è anche un riversamento della guerra fredda, della contrapposizione storica, in cui alla fine però non ci sono più né vinti né vincitori, quindi è in qualche modo anche una riflessione che fa i corsi, ma in generale, diciamo, l'intellettualità europea sta facendo sulla propria storia in un periodo particolarmente delicato. E poi è una grande carrellata cinematografica attraverso anche i generi, citazioni e linguaggi cinematografici che merita di essere visto. Bene, bene. Questi Questi sono. Bene, sono. Federico, è stato un piacere. Ci speriamo di Piacere risentirci mio. presto nel corso del Ma certo. 2019 e di vederci anche in sala. Assolutamente sì. L'importante è continuare ad andare al cinema perché, insomma, nonostante Netflix, diciamo, le sale sono ancora aperte, è bene andare. Sempre meglio andare in sala. Un abbraccio, Fede, ciao.